Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, giovedì 20 settembre 2012, undicesima puntata di Restiamo Animali. In redazione oggi Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Alessandra Giannini, Elisa Moretti e Massimo Chiari. Massimo, ce l'hai oggi una musica veganza? Siccome Controradio è una radio vampira, ho scelto una musica per vampiri vegani, un lungo brano in pieno stile post-rock degli italiani Il rumore dei fiori di carta. La frase di oggi è di Albert Schweitzer: coloro che sperimentano sugli animali non dovrebbero mai acquietare la loro coscienza dicendo a se stessi che queste crudeltà avrebbero uno scopo lodevole. E si torna a parlare di vivisezione. Dopo la faccenda Green Hill e il successo delle adozioni dei cani Beagle, si apre questa volta il fronte di Harlan. Avrete sentito parlare di questa famigerata multinazionale e del fatto che gli attivisti nel marzo scorso bloccarono l'importazione di 750 macachi destinati alla sperimentazione animale. Due le occasioni per manifestare contro Harlan: la prima il 29 settembre a Udine, ed è già stato organizzato un pullman da Firenze, forse ce ne potrebbe essere un altro. Contattate su Facebook il gruppo No Harlan Group. Il 20 ottobre una seconda manifestazione a Correzzana, questa volta in Lombardia. Siamo con Gaia del No Harlan Group di Udine. Che cos'è Harlan? Harlan è una multinazionale che ha sede in 13 nazioni, ha iniziato nel 1931 a Indianapolis, che è tuttora la sede principale, e si occupa di biotecnologie, ovvero di allevare animali da laboratorio, principalmente topi, ratti, piccoli roditori, ma anche beagle, grazie a partnership con altre multinazionali e imprese simili sempre nelle biotecnologie. Stalla e alleva anche primati, gatti, furetti, tutte creature destinate ai laboratori di vivisezione. In più, oltre ad allevare e stallare per conto terzi animali da laboratorio, pratica la vivisezione stessa nei suoi laboratori come servizi sempre per conto terzi. In Italia ha tre sedi: ad Azida, che è quella più vicina a Udine, sede della nostra manifestazione del 29, e due sedi in Lombardia, a Bresso e Correzzana. Harlan è entrata nel mirino degli antivivisezionisti subito dopo Green Hill, quasi sull'onda dei successi che abbiamo ottenuto a Green Hill, e io personalmente considero Harlan mille volte peggio, perché non solo alleva, quindi dalla nascita alla morte dell'animale, ad Harlan può anche non uscire mai dai suoi stabilimenti, proprio perché fanno vivisezione all'interno dello stabilimento stesso, cosa che a Green Hill, perlomeno per loro fortuna, non accadeva. Qual è l'obiettivo di questa campagna? Beh, la chiusura di Harlan sarebbe un sogno, ma visto che un sogno l'abbiamo appena realizzato, il salvataggio di 2500 cani a Green Hill, forse possiamo permetterci di sognare anche la chiusura di Harlan. Soprattutto quello a cui puntiamo prima di tutto è l'informazione, perché sulla vivisezione purtroppo c'è ancora moltissima omertà, segreti, mezze verità e bugie spudorate senza né mezzi termini. Quindi cerchiamo di intanto puntare i riflettori su Harlan come sono stati puntati su Green Hill, in modo tale che anche questa realtà venga messa in luce, smascherata nelle sue eventuali mancanze riguardo alla legge sul trattamento degli animali, eccetera. E oltre a puntare i riflettori su Harlan, vogliamo puntare i riflettori sulla vivisezione, perché non possiamo permetterci che l'argomento torni nell'ombra, ora che finalmente ha raggiunto i media nazionali. La manifestazione del 29 è solo l'inizio, abbiamo in programma di fare altro, di continuare a informare il cittadino comune, il cittadino medio che magari non sa che la vivisezione esiste ancora. Io lo so che per molti Green Hill è un fuoco di paglia, perché sono cani, perché chi ha il cane in casa si identifica, prova pietà e compassione per il beagle di Green Hill. Ma la sofferenza animale è indipendente dalla specie, i topi soffrono, non sono particolarmente popolari come animali domestici, ma soffrono anche loro e soffrono inutilmente, perché purtroppo la vivisezione non ha niente di scientifico, che ne dicano i grandi luminari che si battono perché prosegua questa pratica. Spero veramente che non sia un fuoco di paglia e non permetteremo che lo sia. Il 7 settembre il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso presentato contro il calendario venatorio 2012-2013 del Piemonte da varie associazioni che avevano fatto parte del comitato per il referendum contro la caccia in Piemonte e ha sospeso l'apertura della caccia, che avrebbe dovuto avvenire domenica 16 settembre. Ci fa il punto della situazione Roberto Piana, presidente della sezione Piemonte della LAC. Sostanzialmente sono tre le motivazioni dello stop alla caccia e della sospensiva decretata dal TAR. Manca in Piemonte un piano faunistico venatorio, non è mai stato approvato e la cosa è aggravata dal fatto che non c'è più una legge regionale. A maggio ricordiamo che il Consiglio regionale abrogò la legge regionale al solo scopo di impedire il referendum. Con questo ha fatto sparire tutta una serie di misure di tutela della fauna e naturalmente sommato questo alla mancanza del piano faunistico, e questa è una ragione per cui il TAR ha sospeso il calendario venatorio. La seconda ragione, manca la valutazione di incidenza per le zone della rete Natura 2000 e non sono stati rispettati i periodi dell'attività venatoria fissati dall'ISPRA, istituto statale che fornisce i pareri scientifici alle regioni. Queste sono sostanzialmente le tre ragioni. Ora, l'assessore Sacchetto non so come potrà uscire da questa situazione nella quale si è messo. Certo è che a nostro avviso, mentre l'adeguamento dei tempi alle indicazioni dell'ISPRA è una cosa assolutamente possibile, riteniamo che sia molto difficile se non impossibile che in pochi giorni possa la Regione approvare il piano faunistico venatorio o in pochi giorni realizzare la valutazione di incidenza. Per cui la nuova delibera, se ci sarà, sarà nuovamente illegittima e le associazioni sono già sul piede di guerra per impugnare nuovamente. Ci sono delle speranze per quanto riguarda il referendum che era stato di fatto bloccato lo scorso giugno? Ci sono delle speranze, sì, i tempi però non li conosciamo perché il referendum non è stato superato, è stato impedito, il referendum c'è ancora, è lì che cova sotto la cenere. Ci sono una serie di ricorsi, tra cui c'è anche un ricorso al Capo dello Stato per lo scioglimento del Consiglio regionale, reo di gravi violazioni alla Costituzione per aver impedito il voto popolare, però non conosciamo i tempi della giustizia né amministrativa né civile, quindi non sappiamo se e come questo referendum verrà riproposto. Certo, oggi non c'è più la legge, bisognerà aspettare una nuova legge, dopodiché automaticamente crediamo che il quesito si trasferirà sulla nuova legge. E alla fine i cacciatori hanno vinto, o almeno non hanno perso. La Giunta regionale del Piemonte in tutta fretta ha approvato una delibera immediatamente esecutiva che ha consentito di cominciare subito la caccia al cinghiale e dal 30 settembre la caccia ad altre specie. Considerando illegittima questa delibera, le associazioni animaliste piemontesi hanno promesso che continueranno la loro battaglia. Una confezione di tempè di sua spontanea iniziativa si è lanciata nel vostro carrello? L'avete portata a casa senza rendervene conto e adesso non dormireste tranquilli tenendola in frigo? Nessun problema. Crocchette di tempè e ceci. Ingredienti per 12 crocchette. Un panetto di tempè tipicamente da 250 grammi, 240 grammi di ceci lessi sgocciolati, ovvero una lattina di ceci già pronti biologica, un litro di brodo vegetale, uno spicchio di aglio, prezzemolo tritato, panatura di mais per celiaci oppure pan grattato, sale e qualche cucchiaio di olio d'oliva. Scaldare il forno a 200 gradi, far bollire il panetto intero di tempè nel brodo vegetale per 10 minuti, scolare e lasciar freddare. Con l'aiuto di una forchetta sbizzarritevi a schiacciare molto bene i ceci. I più perversi ci daranno dentro. Grattugiare il tempè e impastare con i ceci, il prezzemolo e lo spicchio d'aglio spremuto, aggiungendo un po' di sale. Formate con le mani delle crocchette, dovrebbero venire circa 12 crocchette, e passarle nella panatura. Cospargere di olio una teglia da forno dai bordi alti e disporci sopra le crocchette. Cuocere per i primi 20 minuti in modalità statica, girando delicatamente le crocchette ogni tanto. Proseguire la cottura per altri 20 minuti in modalità forno ventilato. Togliere dal forno e salare. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di queste e tutte le precedenti trasmissioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.